4B. Ascolta e completa. Signora, l'ufficio è chiuso per sciopero. Abbia pazienza. Mi spiace, ora non posso ricevere nessuno. Abbia la cortesia di aspettare. Signore, ho bisogno di una mano. Abbia la bontà di aiutarmi. Signori, l'ufficio è chiuso per sciopero. Abbiano pazienza. Mi spiace, signori, ora non posso ricevere nessuno. Abbiano la cortesia di aspettare. Signori, ho bisogno di una mano. Abbiano la bontà di aiutarmi.